24 mattino. 349-238-6666, ancora buona giornata da Irene Zerbini. Oggi la rubrica con i corrispondenti stranieri, come ci vedono, cosa notano, cosa qualche volta li infastidisce, cosa invece apprezzano, è stata spostata alle 8:15 dalle consuete 7:15. Nel corso della trasmissione allora incontreremo il nostro corrispondente per gli organi di stampa, la televisione greci. Poi andremo a parlare di rientro dei cervelli, è definito brain drain, e ci sono perfino delle cifre che calcolano a quanto ammonti la perdita della migrazione di persone altamente qualificate, e l'Italia è colpita in modo particolare da questo fenomeno per la scarsa attrattività delle università. Ma come farli rientrare? Già qualcosa è stato messo in atto proprio per far ritornare gli accademici in fuga? Quali potrebbero essere delle strategie efficaci? Se avete suggerimenti, naturalmente segnalatecelo al 349-238-6666. Io voglio salutare intanto Dimitri Degliolanes. Buongiorno, Yassu dovrei dire, buongiorno. Yassu. E Dimitri è corrispondente per ERT, la TV pubblica greca, e il quotidiano Ethnos. E quindi Dimitri, la domanda che prima di tutto voglio porti riguarda non tanto la tua permanenza in Italia, ma gli incendi ad Atene finalmente sembra stiano arretrando. Sì, è vero, c'è stata durante la notte sono riusciti i pompieri a metterli, a circoscrivere un pochettino questi furiosi incendi che hanno devastato tutto il nord dell'Attica. E già prima del collegamento stavo guardando la mia televisione via satellite e vedevo che oramai il dibattito sta avvertendo su che cosa succederà nelle parti, sono 1200 ettari devastati dal fuoco, e il rischio ovviamente è che sorgano come per magia una serie di villette abusive, come si usa purtroppo dalle nostre parti, insomma. Quindi non è un fenomeno senza precedenti. Raccontaci cosa è successo in passato e quali sono i sospetti, naturalmente, sul dolo e sulle cause di questi incendi. Beh, abbiamo avuto questa grave devastazione del Peloponneso nel 2007, che è stata, insomma, il primo campanello d'allarme non tanto sull'incuria dell'ambiente, quanto invece sulla capacità dei meccanismi di prevenzione del pubblici, dello Stato, di affrontare queste emergenze. All'epoca, nel 2007, ci furono grandissime critiche verso il governo, che sono state puntualmente ripetute e aggravate 2 anni dopo con questo incendio che era alle porte della capitale greca. Mi spiego, perché forse i nostri ascoltatori non conoscono un piccolo particolare: ad Atene abita circa la metà della popolazione greca. C'è stata una... Quanti abitanti fa l'area metropolitana intorno, tra Atene e dintorni? 5 milioni sui circa 11 milioni che è il totale degli abitanti della Grecia, quindi insomma è un fenomeno di urbanizzazione selvaggia, cominciato già all'epoca dei colonnelli negli anni 60, e che ovviamente dopo il colonnelli nessun governo è riuscito ad arginare, a decentrare, a far sviluppare poli alternativi in altre città greche. Per cui questa devastazione, questo incendio di fino a ieri, fino a questa notte, insomma, era l'ultimo campanello d'allarme per la sorte di questo, non solo di Atene, ma di tutta l'Attica. Cos'è successo, Dimitri, alle persone che hanno dovuto lasciare le loro abitazioni? Beh, sì, loro sono, in verità non sono tantissimi, sono una quarantina le abitazioni distrutte, e altrettante saranno quelle che hanno subito qualche danno, comunque sono abitabili, e man mano che si contiene l'incendio la gente comincia a rientrare. Non c'è quindi, insomma, una situazione tipo Aquila, per dire, con migliaia di sfollati. No, il problema vero, i problemi veri, appunto, oltre all'abusivismo, alla devastazione del terreno, si vedranno anche quest'inverno, quando Atene, che è la capitale più inquinata, con l'inquinamento atmosferico più alto in Europa, non avrà più questo polmone verde attorno che la circondava. Chiaro. Da quanti anni sei in Italia, Dimitri? Dal 1967. E torni spesso in Grecia? Sì, spessissimo. Quanto costa un Roma Atene, più o meno? Beh, in bassa stagione me la cavo con, sì, anche con 190-200 euro. Da quando sei in Italia, naturalmente, hai fatto corrispondenze, hai redatto pezzi, hai confezionato servizi, approfondimenti su praticamente tutti gli aspetti della vita italiana. Qual è invece... Meno il calcio. Meno il calcio, sì, questo l'hai precisato, tu proprio non ne mastichi, diciamo così. Non voglio proprio occuparmene. È una scelta quella. Sì, proprio, non ne temevi non di me essere ne poi, pronto, temevi poi di essere in qualche modo monopolizzato da questa passione e febbre italiana. Ma qual è l'ultimo grande servizio che hai fatto? Prima delle vacanze, sappiamo che sei rientrato da poco a Roma. Sì, beh, Irene, prima di partire per le vacanze ovviamente dominava Berlusconi, era tutto Berlusconi, tutto luglio e seconda metà di giugno direi che ci siamo occupati quasi esclusivamente di Berlusconi, ma non solo io, ma tutti i colleghi qui della stampa estera, tutti quanti. E questo Dimitri per la TV pubblica greca. Sì, quindi sì, a che ora venivano mandati in onda i servizi su Berlusconi? Cioè nell'edizione principale, qualche approfondimento serale? Sì, che rilievo aveva? Beh sì, noi abbiamo un notiziario che va alle 9 ora locale. Alle 9 di sera? Sì, alle 9 di sera. Cioè sì, questo è il vostro prime time, le 9 di sera? Sì, le 9 di sera. Sì, sia al notiziario principale, sia a quelli dell'ora di pranzo, quella di mezzanotte, insomma sì, a tutte le ore. Quindi c'è molta attenzione, i greci conoscono bene. Scusami, le storie di Berlusconi negli ultimi mesi erano storie che si raccontavano da sole, come si dice in gergo giornalistico, cioè erano storie ovvie, per cui erano... Per questo hanno fatto il giro del mondo, era la delizia del giornalista. Abbiamo fatto collegamenti con corrispondenti da diversi paesi, infatti tutti hanno segnalato, hanno segnalato questo aspetto, però molti poi infilavano la storia a pagina 28 del giornale locale, per questo ti chiedo che tipo di collocazione aveva sulla stampa greca. L'ultima volta che la stampa italiana si è soffermata a lungo, a parte questi incendi, sulla situazione in Grecia è stato durante per esempio l'Olimpiade del 2004 ad Atene. Sì. Sì. E per il resto anche la rivolta, la devastazione del centro di Atene a dicembre è vero, la rivolta contro la polizia, un altro inizio di decadenza del paese. Per quel che riguarda invece l'Italia e il tuo occhio così greco, naturalmente siete considerati una nazione a cui dobbiamo moltissimo, siete considerati non solo dagli italiani la patria. Un prestito dato moltissimi anni fa, oramai. Moltissimi anni fa. Ma siamo noi oramai debitori. Sì, è stato restituito? Sì, ma da molto tempo, molto tempo. Beh, siete considerati la patria della democrazia, del teatro, della filosofia e quindi... Siamo molto decaduti da allora, purtroppo. Beh, mi piace questa allora, ci piace questa storia che siamo eredi degli antichi che erano così brillanti, però poi ci guardiamo allo specchio e vediamo quanto indegni, eredi indegni siamo, questa è la verità. Dovendo definire l'Italia, che ormai tu conosci lungo e largo, l'hai non solo percorsa ma addirittura raccontata con tre aggettivi, come la definiresti, Dimitri? Beh, un paese bello, caotico e ingovernabile. Bello, caotico e ingovernabile, cioè un destino secondo te legato alla mentalità italiana, al carattere italiano, a cosa? Sì, beh, l'Italia ha una sua storia particolare, fatta di tanti realtà locali brillanti, belle, interessanti, che però difficilmente possono diventare, sono diventate storicamente un'unità, diciamo così, a livello nazionale. Questo è un problema anche di attualità politica, no? In questi giorni. Quando i greci arrivano in Italia, per esempio, dove vanno i turisti greci? Quali allora, sono? I turisti greci fanno. Allora, c'è una grossa parte che fa i viaggi organizzati in città d'arte, quindi Roma, Firenze, Venezia, e c'è un'altra parte di amatori che si fa Magna Grecia, Sicilia, e lì sono alla ricerca delle radici. E cos'è che li sorprende o l'incanta o viceversa l'irrita nel corso di questi viaggi? Allora, il turista consapevole, che sa che cosa va cercando, ammira tantissimo, come tutti quanti noi ammiriamo, io personalmente ammiro, la capacità degli italiani di preservare, di conservare, di restaurare i loro monumenti. Questo è un grande merito, è una grande sensibilità che hanno gli italiani, dalle istituzioni fino ai semplici cittadini, ed è veramente, vorrei che fosse trasmesso anche ai miei concittadini. E quello che invece li irrita sono questa rigidità degli orari, per esempio dei ristoranti. Il greco mangia di solito alle 4, per dire, a Roma la cucina chiude alle 3, per cui regolarmente... Insomma, gli orari 12, 3, 7, 11. Sì, esatto. Grazie Dimitri per questa conversazione, una sorta di specchio dell'Italia proposto dai corrispondenti stranieri. Dimitri Deliolanes, Yasu, è il corrispondente per ERT, la TV pubblica greca, il quotidiano Ethnos. Ancora buona giornata, 34 minuti trascorsi dopo le 8. Vogliamo parlare non tanto di fuga quanto di rientro dei cervelli. È possibile? Come lo si può incentivare? E saluto innanzitutto i nostri ospiti, con noi il professor Andrea Lenzi, che è il presidente del Consiglio Universitario Nazionale, membro del Comitato per il Rientro dei Cervelli. Buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno. Con noi c'è anche Annalena Venneri, una professoressa ordinaria di neuroscienze cliniche alla University of Hull in Inghilterra, ha partecipato al programma Rientro dei Cervelli, ha lavorato all'Università di Modena e oggi è rientrata suo malgrado in Inghilterra. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno alla professoressa Venneri. Con noi anche il professor Maurizio Battaglia, è un professore a contratto di geofisica all'Università La Sapienza di Roma, anche lui ha partecipato al programma di Rientro ai Cervelli, e Gianluca Jacobellis dalla McMaster University di Hamilton in Canada, è stato tra i vincitori nel 2008 del programma Rientro dei Cervelli, ma ha preferito rinunciarvi. Buongiorno. Buongiorno a voi. E tra poco ci spiegherà anche perché. Prima però facciamo un punto, professor Lenzi, perché si parla sempre di stime, così si danno delle stime molto diverse. Innanzitutto cerchiamo di capire perché è un problema la fuga dei cervelli, perché può apparire che la formazione all'estero faccia parte di un normale percorso universitario. La mia risposta è che lei ha assolutamente ragione, cioè nel senso che l'università, nel suo concetto addirittura fondatore alcune centinaia di anni fa, direi quasi 1000 anni fa, è stata proprio quella dei clerici migrantes, cioè del fatto che bisognasse migrare in altri posti dove si faceva la stessa scienza per apprendere, per imparare, per conoscere. E quindi il concetto dell'andare in altri laboratori a conoscere, in altre strutture letterarie, in altre università, per sapere quello che nella propria scienza si fa, è essenziale per la formazione del ricercatore. Per esempio, lei è il direttore del Dipartimento di Fisiopatologia Medica dell'Università di Roma, sto parlando della Sapienza, in questo caso accanto a lei avrà colleghi che provengono da altre nazioni. Sì, io ho colleghi, non solo, ma il sottoscritto stesso è alla sua età giovane, ahimè un po' di anni fa, è stato un ricercatore all'estero. Il problema è il saldo negativo che noi purtroppo abbiamo in Italia rispetto a questo problema, cioè il fatto che i nostri ricercatori che vanno all'estero spesso e volentieri sono costretti o ritengono più opportuno rimanere all'estero perché è più appetibile, diciamo, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista della possibilità di produrre scienza all'estero, mentre non abbiamo un'altrettanta venuta di ricercatori qua in Italia. Non si compensano le perdite, diciamo, esatto, così. Esatto, il bilancio è negativo, ecco, questo è il grave difetto, non è l'andare all'estero. Non è tanto l'andare, ma il fatto che noi siamo ben felici, perché vuol dire che la nostra università produce persone che sono stimate tanto all'estero da rimanerci, da produrre grande qualità. Dovrebbe essere altrettanto vero il contrario, che potrebbe attiriamo, ma mancano le risorse. Dovremmo attirare anche emigrati, chiamiamoli così, sì, ad alta qualificazione. Riportare i nostri, perché l'andare all'estero è opportuno, ma cioè il ricercatore deve andare all'estero, ma la nazione deve preoccuparsi del suo recupero, non fosse altro per recuperare l'investimento prodotto per formarlo, no? 349-238-6666 o scriveteci 24mattino@radio24.it, e quindi abbia messo gli elementi base per questa discussione. Il problema non è tanto la formazione o il completamento dei propri studi o un master a all'estero, quanto il perché l'Italia non ha appeal. Ma chiediamolo al professor Maurizio Battaglia, anche perché è uno dei pochi soddisfatti che invece sta alla Sapienza di Roma, l'abbiamo raggiunto in questo momento a Los Angeles, ma per questioni familiari e personali sue. Qual è la sua storia, professor Battaglia? Lei all'estero ci è andato perché? Io sono andato all'estero perché ho vinto il dottorato di ricerca alla Stanford University. Poi? Terminato il dottorato di ricerca alla Stanford University, come diceva precedentemente il presidente del CUN, comunque avere la possibilità di svolgere un dottorato all'estero è sicuramente un'ottima possibilità, opportunità di formazione. Finito il dottorato a Stanford, ho fatto il postdoc a Berkeley e poi ho lavorato per 2 anni in Germania, dopodiché mi è stata offerta la possibilità di entrare alla Sapienza con un contratto che sicuramente per me era molto interessante. Quindi in questo momento lei è alla Sapienza di Roma? Sì, grazie a questo programma di finanziamento del rientro. In cosa consiste esattamente? Cioè le paga, chi paga il suo stipendio innanzitutto? Il ministero, l'università, chi? Il ministero. Il contratto del tipico del rientro dei cervelli sono 3 anni più con la possibilità di rinnovo di un quarto anno. Io adesso in questo momento sono al quarto anno del rinnovo del mio contratto. E dove la troveremo l'anno prossimo? Il mio contratto il quarto anno scade a giugno. Sì, quindi che ne sarà di lei dopo? Non esiste nell'ambito, diciamo, della legge per il rientro dei cervelli un meccanismo automatico, non c'è un percorso simile a quello che negli Stati Uniti è il cosiddetto tenure track, in cui alla fine, diciamo, del periodo di prova, se una persona ha prodotto, viene in qualche modo, c'è un meccanismo di stabilizzazione. L'unico meccanismo, to the best of my knowledge, che di stabilizzazione all'interno della legge rientro ai cervelli è la cosiddetta chiamata diretta. Tutto dipenderà dal fatto che il mio dipartimento faccia la chiamata diretta e che ci sarà un percorso amministrativo che questa chiamata diretta deve seguire, occorrerà tempo e vedremo che cosa. Quindi ancora lei non sa cosa succederà l'anno prossimo? No. Alla sua carriera professionale. Quanti anni ha, professor Battaglia? 45. Ed è professore a contratto di geofisica all'Università La Sapienza. Professoressa Annalena Venneri, la disturbiamo in Inghilterra. La sua storia, diciamo così, potrebbe essere simile, con naturalmente qualche cambiamento biografico e di competenza, a quella del professor Battaglia. Lei è semplicemente più avanti. Cos'è successo dopo i 4 anni di rientro? Anche lei ha usufruito di questo programma Rientro dei Cervelli all'Università di Modena. Ora la troviamo in Inghilterra. Perché, professoressa Venneri? Io sono tornata in Inghilterra perché dopo aver esaurito il percorso simile a quello del professor Battaglia, questo non si è completato con una chiamata da parte del mio dipartimento, del mio ateneo, e quindi come unica alternativa professionale io ho avuto quella di dover tornare all'estero e riprendere la posizione nell'università da dove venivo. Cioè eravamo riusciti, diciamo così, a riacquisire il suo capitale, perché qui stiamo parlando anche in termini economici di capitale, questo capitale umano. Immaginate quanto costi formare un non solo un laureato ma addirittura un ricercatore in termini di istruzione, di anni di istruzione, e poi l'Italia se li fa scippare, diciamo così. Ha aperto gli occhi sul problema, è riuscita a creare un programma specifico per portare a casa chi aveva già fatto le valigie, e adesso, paradosso dei paradossi, su 500 persone sulle quali si era investito, solo 50 sono rimaste in Italia. Quindi è decisamente uno spreco ulteriore. Nel caso della professoressa Venneri, devo chiederle, scusi, se lei ci sarebbe rimasta volentieri a Modena o in Italia, o comunque preferiva andarsene? No, io sarei rimasta in Italia molto volentieri, anche perché con tutte le difficoltà del ruolo che chi aveva chi ha usufruito di questo tipo di contratti ha incontrato, nel mio caso io ho incontrato molte difficoltà perché il ruolo non era ben definito, no? Nella mia università, ma credo che la maggior parte di noi siamo stati equiparati ai professori a contratto. E quindi come tali con dei ruoli che non sono quelli convenzionali di un docente a tutti gli effetti. Spesso si incontravano difficoltà sul svolgere la normale attività che un ricercatore a tutto tondo dovrebbe svolgere. Ma nonostante questo io ci sarei rimasta molto volentieri perché riuscivo a lavorare per quel che riguarda la mia attività professionale molto bene, non avevo difficoltà a svolgere il mio lavoro cioè lei potendo scegliere tra Modena, dove già era, e l'università inglese in cui si trova in questo momento, a parità di condizioni e di salario, cosa avrebbe scelto? Io avrei scelto di rimanere in Italia. Eppure è rientrata suo malgrado. Sono storie incredibili. Professor Andrea Lenzi, lei è il presidente e membro, anzi, del Comitato per il Rientro dei Cervelli, è presidente del Consiglio Universitario Nazionale, quindi probabilmente per lei queste non sono tematiche nuove, ma le assicuro che è piuttosto sorprendente scoprire che anche chi è rientrato e chi ci voleva rimanere in Italia in realtà ha rifatto le valigie. È sorpreso? Beh, sì, ne sono sorpreso da un certo punto di vista, però ancora una volta ripeto, la professoressa ha detto molto bene, a parità di condizioni sarei rimasta. Il problema, ahimè, è che non esiste la parità di condizioni. E ci spiegherà il perché tra pochissimo. E rieccoci insieme. Con noi oggi ci sono questi famosi cervelli che vengono descritti sempre come in fuga. Questi erano anche rientrati o era stata offerta loro l'opportunità di rientrare. Alcuni hanno preferito non coglierla e altri, una volta esaurito il programma di rientro, come avete sentito sono 3 anni più uno facoltativo, hanno dovuto loro malgrado andare all'estero. Diceva professor Lenzi, lei che fa parte di questo comitato che gestisce questo programma, non ci sono queste parità di condizioni. Io adesso non conosco la storia della professoressa Venieri che poco fa ha parlato, ma in generale sono certo che il ricercatore italiano ha uno stipendio inferiore fra il 30 e il 50% rispetto a tutte le altre parti del mondo, parliamo ovviamente del mondo occidentale industrializzato o comunque del mondo che si dedica all'università e alla ricerca scientifica. Da noi meno dell'1% del PIL è dedicato alla ricerca scientifica e all'università, e questo chiaramente pone l'Italia in una difficoltà. Il nostro progetto Rientro Cervelli funziona benissimo, quest'anno si è riusciti a riportare altri 24-25 cervelli, ma le domande erano 120-125, quindi questo vuol dire che noi abbiamo potuto impiegare i 3 milioni di euro che avevamo a disposizione per far ritornare una parte di questi e gli altri sono in lista d'attesa. Inoltre di questi, come ha detto benissimo il professor Battaglia che è intervenuto prima, quando al termine del loro programma Rientro Cervelli, dopo 3-4 anni di applicazione di questo progetto di ricerca, avranno svolto il loro programma, dovranno valutare se è opportuno rimanere, se l'università dove stanno gli dà l'opportunità di rimanere, sia come ingresso in ruolo, cioè nel senso, come ha detto bene il professore, con la trasformazione attraverso la chiamata diretta del loro ruolo di professore a contratto in un ruolo docente a tutti gli effetti. Certo. E poi si gli darà anche i finanziamenti per produrre il progetto di ricerca, insomma abbiamo sentito un geofisico, insomma voglio dire è quindi un meccanismo del materiale pecuniario per poter fare ricerca scientifica in questo campo. Chiaro, è un meccanismo di stabilizzazione, cioè il programma di rientro dei cervelli potrebbe anche essere considerato soddisfacente quando ci limitiamo a giudicare questi 3 anni più uno che vengono dati a chi rientra nei criteri. Il problema è che dopo queste persone, questi professori, devono anche immaginarsi un futuro e devono valutare e l'aspetto economico, chiaramente, quindi lo stipendio, perché ce li si contende poi i migliori cervelli tra le università. Appunto, è un po' come nel calcio, no? Il migliore calciatore, cioè veramente il ricercatore deve girare e deve essere compeso, perché se non è conteso vuol dire che non vale molto. Che non ha un mercato, secondo lei. Certo. Professor Gianluca Iacobellis, quello che si è sacrificato di più per questa conversazione, perché lo raggiungiamo a Hamilton in Ontario, sono le 2:30 del mattino alla McMaster University. Lei, Iacobellis, ha vinto il programma Rientro ai cervelli, anzi è stato il primo in qualche modo, quindi poteva rientrare. Perché? Perché è ancora lì? Dunque, innanzitutto saluto il professor Lenzi e tutti gli altri miei colleghi. La storia è piuttosto semplice e complessa allo stesso modo. Io sono ormai quasi 7 anni che sono in Nord America e tutto è iniziato nel 2003 quando sono stato invitato dalla Southwestern Medical University a Dallas in Texas e dopo alcuni per una postdoctoral fellowship e dopo alcuni anni passati lì feci la domanda per il rientro dei cervelli, che poi fu in realtà congelata per un paio di anni, e io nel frattempo sono stato invitato e mi è stato offerto la cattedra come associate professor alla McMaster University che attualmente detengo. In quale facoltà? In quale facoltà, professor? Diciamo felice notizia, simpatica notizia della vittoria del programma del rientro dei cervelli, che però a quel punto, dopo averla valutata e soprattutto con un punto di vista diciamo così sentimentale, perché c'era la possibilità comunque di rientrare in qualche modo all'università, alla mia università di nascita, di partenza, cioè alla Sapienza, cioè l'avrei fatto con grande piacere, ho valutato e le due posizioni erano del tutto incomparabili, del tutto, cioè la proposta era a quel punto era divenuta inadeguata, perché si trattava di lasciare una posizione di professore associato, un tenure track, con tra l'altro da poco sono diventato direttore della divisione di endocrinologia bariatrica e quindi una posizione stabile, una strutturazione accademica con potenzialità di ricerca clinica e senza anche per valutare l'aspetto economico, contro un contratto a tempo sulla base di un progetto che era stato valutato positivamente, ma comunque non una strutturazione, cioè un contratto limitato che poteva essere poi rinnovato e può, come ha detto il professor Lenzi, in linea però teorica essere trasformato in una strutturazione però a titolo di ricercatore, perciò comunque è un titolo inferiore a quello che io ho, quello che lei ricopre. È come dire quasi che questa formula in qualche modo può essere anche appetibile, professor Lenzi, ma forse per coloro che non hanno ancora una cattedra o una prospettiva tracciata all'estero, se già ci sono posizioni da professore associato, come ha sentito in questo caso direttore del dipartimento o addirittura tenure track, è difficile che si riesca a far rientrare sulla base di questo programma che, al di là dell'aspetto economico, non offre la certezza di una stabilizzazione al professore. Beh, in effetti, se posso rispondere, il progetto Rientro Cervelli sarebbe stato immaginato per più giovani, cioè nel senso per under 40, cioè sotto i 40 anni. Sì, ma sotto i 40 anni all'estero spesso si sono raggiunte già posizioni considerevoli. No, infatti lei ha perfettamente ragione, noi stiamo parlando dalla prospettiva italiana, noi diciamo lauriamo qualcuno intorno ai 24-25 anni, questa persona va all'estero, si forma, produce, come ripeto ancora una volta dovrebbe essere, l'abbiamo detto all'inizio, uno scambio alla pari, dovrebbero esserci altrettanti che vengono qua da noi se fossimo appetibili, dopodiché si decide chi fa rientrare con questo progetto Rientro Cervelli. Chiaro che nel caso dell'amico professor Iacobelli, che conosco benissimo perché tra l'altro è docente nella mia stessa materia, quindi ci conosciamo assai bene e il suo rientro ci avrebbe fatto estremamente piacere, era chiaro che non era quella la procedura giusta, cioè la procedura Rientro Cervelli non è adeguata a una posizione come quella che lui ha, dove invece magari si dovrebbero cercare di intraprendere direttamente procedure di chiamata diretta, come si può appunto fare, perché la chiamata diretta non solo consente di stabilizzare il Rientro Cervelli, ma consente anche di richiamare in Italia persone con pari o equivalenti. Chiaro. Adesso ci fa sapere il ministro Maria Stella Gelmini e sono pronti in totale 8 milioni di euro per i giovani scienziati, 6 milioni in 4 anni con il progetto Rita Levi Montalcini, riportato anche dal Messaggero, per trattenere in Italia almeno 25 giovani e brillanti scienziati, e poi c'è il progetto delle chiamate dirette con 2 milioni e mezzo di euro fino a 40 docenti di chiara fama che lavorano negli atenei stranieri. Professor Iacobellis, lei che osserva l'università dal Nord America. E come vengono valorizzati invece i giovani all'estero? Adesso, a prescindere da questo programma Il Rientro dei Cervelli, si diceva dovremmo comunque avere un'università che, prima che farli rientrare, non li fa nemmeno fuggire, un'università appetibile che venga considerata prestigiosa anche all'estero. Come ci si muove in Nord America? Mi fa piacere di questa domanda, mi fa piacere delle parole del professor Lenzi, in cui mi trovo totalmente d'accordo. Abbiamo poco tempo. Sulla nuova tendenza, sulla nuova aria che si dovrebbe respirare, sembra respirare in Italia, da quello che capisco, su una valutazione maggiore del merito. Perciò spero che questa legge poi abbia un'applicazione pratica, soprattutto per quanto riguarda la chiamata diretta, non rimanga solo su carta. Ma cosa si fa? Cosa rimane. Si fa in Nord America? Però, per quanto riguarda quello che invece differenzia le università nordamericane soprattutto da quelle italiane, purtroppo devo dire che l'unica logica che regola le università nordamericane è la logica del merito, cioè veramente la meritocrazia è il driving factor, è quello che è il fattore che indirizza la scelta, spesso con un rapporto di tipo privato, di tipo personalizzato con l'università, questo sia per quanto riguarda i giovani sia per quanto riguarda professori o ricercatori già di fama acclarata. Perciò quello che potrei consigliare, o che comunque vedo, ma comunque sono cose già note, che l'Italia dovrebbe basare, un sistema universitario italiano dovrebbe basarsi esclusivamente su una meritocrazia piuttosto che su una valutazione di altri elementi come un'anzianità di servizio, come una sorta il merito, di, i progetti di, pubblicati, i laboratori fra, grazie professor Iacobellis. Dunque il merito, i progetti e naturalmente le esperienze maturate, questa dovrebbe essere la linea guida secondo tutti coloro che abbiamo sentito. Ringraziamo la professoressa Annalena Veneri, il professor Battaglia, buona giornata, al professor Lenzi e il professor Iacobellis. Da Irene Zerbini l'appuntamento è per domani mattina con 24 Mattino. Ora il microfono a 9 in punto.